dai luoghi comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Io e la mia compagna stiamo insieme da 16 anni. E già non è una bella notizia. Però per è lei, un dato di fatto. È un dato di fatto. Complimenti si dice in questi casi, no? Non lo so. Vediamo. Quando è che vi sposate? No, vabbè. Ecco, scusa, appunto. No. Comunque non ci siamo mai detti ti amo. Io non ci credo, l'avrei detto veramente. I primi tempi. No, la prima fase. Mai. Usiamo altre parole che ovviamente non starò qui a ripetere perché tipo? Non sono. No, durante l'ampresso. Ti apprezzo, ti ammiro, no. Ti. No, no, nel senso. Ti voglio bene di solito. Ti voglio bene. Voi sì, ti volete bene? Sì. Ma sì, ma ragazzi, ma è così, perché l'amore non bisogna dirlo, bisogna agirlo. Esatto, cioè, però la cosa positiva è che nessuno dei due ne sente il bisogno, almeno così credo, e quindi c'è un equilibrio. Però online, se si digita la frase "non ci siamo mai detti ti amo", scatta il dramma. Vabbè, quindi, ma perché l'hai scritta? Perché stavo preparando la puntata, mi sono messo a guardare. No, magari tu volevi saperlo, lui lavora. Esatto. Io mi guadagno da vivere, Salmetti. Allora, in vari forum ci sono domande del tipo: come reagite se il vostro lui o la vostra lei non vi dice mai ti amo? Un'analisi sostanzialmente di quel momento imbarazzante nel quale uno dei due lo dice, poi seguono questi 10 secondi, 5 secondi che sembrano 20 minuti, in cui si aspetta la risposta del tipo ti amo, anch'io ti amo, invece non arriva questa risposta. Cioè rimane lì appesa. Ti amo e non succede nulla. È una bella notizia. Stasera andiamo al cinema. In realtà è un dramma, perché ovviamente nella mente della persona, ti vuole lasciare, non è degno del tuo amore, non farti prendere in giro. Però qua siamo a livello relazione 16-17 anni, se non no, 8, secondo me anche anni, due minuti. Cioè, la prima uscita, secondo me, succede anche così. Ma chi? Ma quale prima uscita si dice ti amo? Cioè, Riccardo, ma che cioè, che prima uscita mai dici ti amo, ti querela, ti denuncia, arriva qualcuno, ti arrestano. Scusa, Riccardo, hai una. Di la verità, hai una copia del Cioè del 95 in mano? Cioè. Anche. E beh, le mie ricerche sono fatte anche su quelle piattaforme, caro Alessandro. 2019, Tinder, ma di cosa stiamo parlando? Comunque, i consigli online per superare questo trauma sono dei più svariati. Ad esempio, quelli che dicono più facilmente ti amo sono dei bastardi, approccio direi consolatorio, cioè? È che sono dei bastardi quelli che non te lo dicono, io te l'ho detto, mi sono esposto. E quindi esposta. Io anche se non ti amo ti dovrei dire ti amo così tu sei felice. Esattamente, noi siamo tutti, e si va a compensazione, come la partita IVA, è un do, è un mi prendo. Viene sempre più in mente Natalia Aspesi, che quando siamo andati a casa sua a trovarla e intervistarla ci disse: ragazzi, ma voi di che cosa state parlando? Cioè, ma c'è il mondo che brucia, ci sono le guerre che esplodono ogni secondo. Ancora di cosa? Se uomo e donna però possono andare d'accordo. Però vi voglio ascoltare, prego Riccardo. Dice che non riesce a dirmelo, che tristezza, questo sempre è un utente online. Però ci sto insieme da due anni e ho una figlia con lui, approccio costruttivo. Ma poi cioè non riesce, amo, non riesce a dirglielo, io mi immagino sto povero ragazzo che è lì che prova, io tutto il tempo, non c'è suda freddo. Scusami, vorrei dirgli, ma se è così difficile, molla e trovatene un'altra. E invece no, si fa un figlio, questo è l'approccio costruttivo. Se non mi dice ti amo, potrebbe riempirsi la sua testa di lumache da quante corna gli metto, approccio vendicativo. Sono tutti veri questi, consigli. Veramente? Veri consigli c'è su forum. Lui non gli ha detto ti amo e lei è andata con degli altri. Praticamente. Ultimo risposta che ho trovato sui forum online: dagli tempo. Ero inquieta perché non me lo diceva mai e poi ci siamo sposati. Abbiamo comprato casa, abbiamo un cane e 5 figli. Questo l'ho chiamato approccio, non mi dici ti amo ma ti tengo per le palle. Mi sembra la cosa più evidente. Cioè ci ha costruito intorno una gabbia dorata. Comunque, a conti fatti, ragazzi, credo che non dire ti amo sia la cosa più sensata da fare. Non lo so. Sì, ma tu Longoni, che sei tanto lamentoso, tu hai detto ti amo alla tua ragazza? Ma sì, no? L'avrò detto una manciata di volte. Una manciata quante? Non so, potrei dirlo un paio, due o tre, insomma, perché per me è una parola importante. Due o tre in una relazione di quanti anni? 9 anni. Quindi anche tu sei come lui. Esatto. Comunque, come avete capito, la puntata di Off Topic oggi, che parla di luoghi comuni, è dedicata al luogo comune ti amo ma a modo mio. Che è la significa classica. Poi tra l'altro? Che allora, cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono tanti modi per dirsi ti amo, mi sembra abbastanza evidente. Beh, a me sembra in realtà che questa frase voglia dire altro, cioè ti amo ma non così tanto. Cioè ti amo un po' meno di come ti amo io? Esatto, adesso non vorrei anticipare ma dopo lo faremo sentire, un po' come il Maccio Capatonda disse ti amo ma al 40%. Ah. Cioè è come dire, in questo ti amo ma a modo mio viene racchiuso un altro luogo comune, ovvero non mi voglio impegnare seriamente. Sì. Secondo me ci sono troppi maschi in questo studio e manca una quota rosa che abbiamo già citato fuori onda, e quindi direi il galateo della radio ci impone di introdurla così. Vado bene Riccardo? Vai. Allora, è giornalista al Corriere della Sera, dove si occupa di esteri, attualità e cultura, colleziona libri di Galateo e riviste femminili a cui ha dedicato nel lontano 2005 anche una tesi di laurea. Ha scritto Galateo per ragazze da marito e qui con noi Irene Soave. Ciao. Ciao, ciao, Irene. Ciao Irene. Allora Irene, scusa, presentati tu, dai, dici qualcosa di più che non sia questa definizione un po', no? Ah, wow, io sono piemontese, come si può sentire? Dovete darmi le domande in anticipo. Cioè non sai molto, chi sei? Questo è molto difficile, è un po', so chi sono ma a modo mio. Allora, sì, lavoro al Corriere della Sera, dove appunto mi occupo di esseri, non so. Vedi. Ma la no. Sera cosa fai? La sei lì a casa tua? La sera lavoro, perché è un quotidiano. La sera, la sera lavoro. Che domande la fai? La mattina mi alzo molto presto, leggo, faccio una passeggiata con un amico, vado a... Con un amico? Che è sempre lo stesso? È sempre lo stesso. L'amico della passeggiata? Sì. E lo ami a modo tuo? No. E poi vado a fare colazione e poi vado a lavorare a piedi, e queste sono le mie giornate. Quindi da inviata di guerra, diciamo. Il tuo sport preferito comunque è camminare e scrivere, sostanzialmente. Il mio sport preferito, io non amo molto lo sport, il mio sport preferito è sì, scrivere e leggere. Senti, ma tu hai mai detto ti amo? Beh sì, infatti non vi ho seguiti moltissimo nella prima parte di questa discussione, cioè io lo dico con facilità. Come dici con facilità? Allora io questa cosa non la capisco. Allora, quando tu hai un sentimento, anche di breve durata, ma che riunisce tenerezza, desiderio, calore, felicità di stare insieme, voglia di vedersi, ma vabbè, è amore. Ma io non capisco la reticenza a usare questa parola per un sentimento che proviamo tutti. Non capisco perché usare questa parola con tanta avarizia. E invece ti hanno mai detto ti amo, ma a modo mio? No, mai. Non l'hanno mai detto. E lasciati subito dopo. No, però non me l'ha mai detto. Mi hanno detto ti amo, mi hanno detto tante volte. Non ti hanno mai detto non sei tu, sono io che queste allora, cose no, così. Allora no, vabbè, però questa cosa qua l'ho detta io tante volte. Vedi? Ma l'ho detta io quando invece è lui. Cioè purtroppo non sei tu, sono io. È una frase merdosissima. Okay. Si può dire, sì, scusate, certo. In fascia protetta. Si può dire, no. Certo che si può dire. No, non sei tu, sono io, in genere, cioè, quando io la dico è un po' perché non ci piace, cioè, perché non ci si funziona. E perché non dire, non so, tipo, non è che non sei tu, sono io, ma no, sei tu, sei brutto, non mi piace, hai delle cattive abitudini, ti metti a ridere il naso. Non dico sono io, però è vero che non sei, cioè di fatto è vero che non sei tu, cioè non è che tu hai fatto qualcosa di male, non è che sei brutto. Cioè tu sei tu, è che questa relazione non funziona. Ma non va, buona. E comunque ricordati che è piemontese, quindi falsa e cortese, abbi pazienza. No, è il contrario, anche questo è un altro libro che bisognerebbe scrivere. I piemontesi non sono falsi e cortesi, sono diretti e scortesi. Va bene, questa la registriamo, andremo ad approfondire questa noi off topic. Richiamatemi, perché certo. Questa bisogna dirla. Comunque Irene, cosa prevede il galateo nel caso in cui una persona non ti dica ti amo? Esatto. Ma il galateo non prevede che ci si dica ti amo. Il galateo non prevede i sentimenti. Il galateo costruisce tutta una serie di modi per vivere benissimo senza dirsi ti amo. Che è la cosa che avete detto voi. Cioè gli costruisco facciamo una casa, andiamo a messa insieme, andiamo in giro insieme, siamo una coppia ufficialmente. Cioè il galateo si occupa della struttura, non del contenuto. Cioè dà delle azioni più che delle parole. Il galateo si occupa della struttura, cioè a me non importa se tu mi ami o no, dice il galateo, però quando entriamo in un ristorante entra prima l'uomo perché si sincera che l'ambiente sia adeguato sicuro alla signora. Sì, è così. Perché se c'era una sparatoria certo. Amore, non ti preoccupare, mi faccio sparare io, per te, mi immolo. E questo anche vale se più oggi di mi dieci un ti po' amo. Il contrario, esatto. E questo vale più di 10 ti amo. Poi dopodiché quello che c'è nella struttura, ricordiamoci che i matrimoni d'amore, cioè le unioni d'amore, sono una novità nella storia, cioè è da fine 800 più o meno che con molta fatica e dapprima nella borghesia è entrato l'argomento dello sposarsi per amore e non per combinare patrimoni, no? Certo. Quindi in realtà, anzi, il galateo difende l'istituzione del matrimonio da quella ben più pericolosa e indomabile dell'amore, cioè mette in guardia dai pericoli di sposarsi troppo per sentimento. Ci sono proprio dei libri, tra quelli che cito, ma fermatemi perché sennò questa diventa noiosa, ma ci sono proprio dei libri, L'arte di prendere marito e L'arte di prendere moglie. L'arte di prendere moglie mette in guardia gli uomini da sposarsi per troppo desiderio. Gli dice: cari uomini, voi volete soltanto una cosa, non fermatevi a sposarvi con la prima che ve la concede, perché poi vi stuferete. E alle donne invece, che le tratta un po' più da sceme, gli dice, fa l'esempio di una favola in cui c'è lei che si innamora del vicino di casa sedicenne, ma è spiantato, quindi non può sposarsi con quello di cui si innamora, perché di che campano. E i genitori vogliono farle sposare un marchese sessantenne, ma non può sposarsi con un sessantenne perché non può. E quindi alla fine conosce un ingegnere, perfetto materiale matrimoniale. Esatto. Conosce un ingegnere di 26 anni, molto timido, non bellissimo, ma alla fine insomma si combina. In qualche modo sì. Tu non mi ami? No, io ti amo, ma ti amo di meno. E che cazzo dici, Amanda? Che cazzo dico? Un film di Pina Sinalefe. Ti amo al 40%. questo era Macho Capatonda che abbiamo appena citato, appunto, Alessandro, e ti amo il 40%. Io non lo conoscevo quest'audio. Quando me l'avete sentito sono morto. Oggettivamente sono quando morto. Quando me l'avete sentito? Ho detto quando oggi me l'avete sentito. Oggi è una trasmissione poco italiana. Oggi volevo... Una trasmissione sull'Anacoluto, non sulla di esatto. Però abbiamo recuperato con Anacoluto. Sul discorso del ti amo ci sono varie ricerche su proprio sul maschietto, su come si comporta e quali sono gli atteggiamenti che utilizza per sopperire alla mancanza del ti amo, alla mancanza del dire ti amo. Vanity Fair ha fatto una classifica stupenda di 12 modi alternativi per dire ti amo. Ve ne elenco alcuni perché secondo me sono abbastanza interessanti. Invitandovi fuori con i suoi amici, cioè con gli amici del maschietto. È una dimostrazione di fiducia, ma, di apertura, ma no, al mondo. Si rompe le balle, però, questo non l'ho mai fatto. Ma poi scusate, cioè, che onore. Non è che i suoi amici sono il duca di cioè, nel senso, grazie, vengo volentieri, grazie, però c'è un come dire. Con i miei amici stasera che ruttano e scorreggiano tutta la sera. Ti divertirai un sacco. Poi, inventando parole nuove. Io questa non l'ho capita. Senza... Di Moa. It Moa. Esatto. Sorridendo dopo un bacio. Cioè, tipo, la baci, lei ti dice ti amo e tu... Un bel sorriso di circostanza. Esatto. Ma esiste veramente questa classifica? Ti giuro. Questo però, scusate, ma a me è capitato di farlo. Ah, vedi. Mi è capitato. Prego. Ho buttato lì un sorriso. Cioè, ho sentito questo ti amo, ho sentito... E io non lo so, mi sono sentito di fare un bel sorriso. Secondo me molti hanno fatto, anche i nostri ascoltatori, qualcuno sicuramente. Ragazzi, ma non è che non è sbagliato, cioè è normale che quando uno ti bacia sorridi, però anche lì, cioè anche meno, nel senso succede, in effetti essere baciati è bello e... Comunque la classifica continua con ridendo come pazzi insieme, cioè al posto di dire se ti amo, ridiamo no, come pazzi. No. Sì, questo no, perché quello questo che stiamo facendo adesso, però io scusate, non vi amo. Secondo te l'autore dell'articolo quanto ha preso per sto pezzo? Non lo so, poco, sempre più di noi comunque. 15 euronetti. Comunque, adattandosi alle vostre esigenze, cioè il maschietto si adatta alle esigenze della donna, è un modo per dire ti amo. Secondo me questo ci può stare. Ti amo, ci sto provando. Esatto. Ci sto provando, stai tranquilla, tra poco arriva. Ragazzi, il migliore di tutti è l'ultimo, scompigliandole i capelli. Adesso se lo faccia la mia compagna io mi uccide. Esprimo solidarietà al collega che ha scritto questo pezzo. Sì, vero, vero. Ma sarà una donna, ragazzi, solo una donna può aver scritto questa roba qua. Che ne sai? Me. Questo è un luogo comune, potrebbe essere stato un maschio. Beh, scommetterei dopo nella pausa googliamo. Esatto. Ma è un luogo comune che la donna vuole sposare un miliardario, andando proprio sulla questione anche dei galatei. No, ma non lo so, cioè se nella nostra cultura c'è questa cosa, ma perché fino a 50 anni fa la maggioranza delle donne non lavorava. Fino a 60 anni fa la maggioranza delle donne in età da marito non lavorava, quindi era chiaro che bisognava anche scegliere, cioè che c'è questo retaggio di pescarne uno solvibile, però adesso io non so se ne vogliamo sposare. Solvibile, mi piace come termine. Ma non è che ne vogliamo sposarci un miliardario, però ho notato che nella nostra società è tornata moltissimo l'attenzione per questi cosiddetti in beau mariage, cioè questi matrimoni dove lei attacca il cappello, diciamo. Per esempio, appunto, nel mio libro apro il libro raccontando quanto a noi della nostra generazione, io sono nata negli anni 80, è interessato il matrimonio di Kate Middleton e William di Windsor e poi quello della sorella e del fratello, scusate, sì. Che peraltro ieri è talmente bella la vita smeralda del membro della corte che ieri si è dimesso. Sì. Però diciamo che appunto sì, sono fenomeni che non interessano, forse perché effettivamente la vita che ci hanno insegnato le nostre mamme, che è molto più bella di quella di essere un bel paralume pagato per stare in casa, però è anche molto più faticosa perché devi lavorare, trovarti uno spazio nel mondo e lavorare è bello, ma come disse uno, lavorare stanca. Giusto. E secondo me lavorare nella nostra generazione e nella nostra società stanca moltissimo. Tu stai cercando una persona ricca con cui stare? Ma è una domanda tu vera. Tu sei ricca? Sì. Giochiamoci su. È una domanda vera. No, io sono ricca. Tu sei ricca? Metto questo annuncio. Oh, io signori, sono signora, ricca. È perfetto. Senti, allora io stasera... Ma aspetta, di scusami. Di spirito, no. Di doti umane. Scusami, ma se sei ricca perché lavori? Perché lavori? Puoi anche non farlo. Ricca. Sono ricca in quanto lavoro. Sono ricca del mio stipendio. Del suo prodotto. Bene. Allora ci stavo per provare perché io ero alla ricerca, sono alla ricerca ufficialmente di una miliardaria, ma non... Io farei volentieri casalingo. Ti consiglierei di celare un pochino di più il vero movente della tua ricerca, cioè se cerchi il miliardario di non dirlo. Cosa devo fare? Ecco, vi racconto un aneddoto bellissimo che viene da un galateo. Allora, c'era questo Boniface de Castellane, che è un discendente di una famiglia nobilissima e vive a cavallo tra l'800 e il 900. ed è un uomo nobilissimo, dai modi impeccabili. Non tanto sei tu che, Beppe allora? No. Tanto che, ma per fortuna, perché questo qui, come vedremo, è un po' uno stronzo. Allora, i suoi modi sono impeccabili. È usato per dirimere le questioni di Galateo. Tipo, si bacia una mano guantata? No, ma se gliela porge la regina, lui la bacia e le dice I excuse your gloves, madam. Come dire, faccio un'eccezione alla regola. E questo viene citato in tutti i Galatei per spiegare se si bacia o no una mano guantata. Mm-hmm. Questioni, capite, di vita o di morte. Certo. Questo qui dai modi perfetti, dal pedigree altissimo, così, è però povero, come quasi tutte le famiglie nobili di grande nobiltà che non ha decaduto, mai lavorato, no? Che non ha mai lavorato. Certo. A fine del secolo. Cosa fa quindi? Come tutti questi belli, dandy, nobili, così, si sposa per interesse, per conclamato interesse, come hai detto tu, no? Cerco una miliardaria, allora lo facevano proprio. E si mette con questa Anna Gould, miliardaria americana, bruttissima. E durante tutto loro, però molto ricca, durante tutto il loro matrimonio, vanno, quando gli viene a trovare qualcuno a casa, lui mostra la camera da letto, mostra le stanze, così, e quando arrivano al talamo nuziale, chiama la camera da letto davanti agli ospiti e ora vi mostro la chapelle expiatoire, il posto dove spio, o anche il rovescio della medaglia. La chiamava così. Ma un maestro assoluto. Se tu vuoi metterti, scusate, ma non è bello da dire. Ma è un maestro assoluto. Se tu vuoi una miliardaria, non chiamare il vostro talamo rovescio della medaglia, mi raccomando. No, la chiamerò chapelle, cos'è? Chapelle expiatoire. Diventerà un hashtag questo qua sicuramente. Ma siccome sono sempre più in calo i matrimoni, Irene, sì, anche dati statistici, sì. Il Galateo ha fallito definitivamente, possiamo dirlo? Cioè, non funziona più, non funzionano più nel 2020 le regole del Galateo, o funzionano ancora secondo te? Allora, questa domanda è complessissima e chiedo un altro libro che farò, però ottimo. Però no, allora, una cosa, cioè il Galateo è cambiato con gli anni 60, 70, negli anni 60, 70, 80 proprio il concetto di buone maniere è cambiato, e il concetto di chi sia che ti insegna le buone maniere è cambiato. Si è passati dai nobili, tagliando cortissimo, agli influencer, ma questo ci interessa pochissimo al momento. Quello che è rimasto di tutti questi protocolli del Galateo sono proprio le questioni più formali. Non avete notato che alla gente interessa tantissimo chi si sposa, queste trasmissioni quattro, sì, matrimoni, il boss delle cerimonie. Sì. Io non le guardo perché a me fanno orrore, però noto di essere in minoranza, cioè le persone generalmente piace, perché secondo me noi siamo una società che, è vero, ci sposiamo poco. Ah, ecco, sapete quanto costa per una coppia della nostra età in media un matrimonio? Troppo. 28.000 euro. Ma voi pensate, non abbiamo, cioè siamo i più spiantati del pianeta e spendiamo 28.000 euro per sposarci. Quindi sì, che è proprio quello base, 28.000 euro. No, la media, la media. Cacchio, dai, la media. Con 28.000 euro due bomboliere compri già, su, cioè. Se pensi che un invitato però di solito ti dà dei soldi, alla fine qualcosa recuperi. Ma impari, dici? Ma sì. Secondo me è 100 euro classico, Dici? Però sud, anche un 200 al volte anche un, al si danno anche dei soldi, delle bustine. Scusate, ma tra di noi chi si sposerebbe? Nessuno, vero? Silenzio, tu no? Lascia un bel silenzio. Lascia un bel ma silenzio. Ma dipende. Io non ti sposeresti? Io sono, sì. Religioso o civile? Ma religioso, vabbè, io sono religiosa. Ah, ok, perfetto. Ma sì, mi sposerei. Però se avessi un marito con cui vale la con pena, cui hai un progetto, con cui di l'idea vita, cioè, di vivere insieme per sempre, cioè, non è male. Al ma momento, ti piace anche l'idea della cerimonia? Scusami, il vestito bianco alla chiesa, no? Non tanto, però non voglio dirlo tanto perché cioè non voglio per fare la parrucona che si, no perché, no, io no, però poi lo vuoi, no, no, ma non, cioè, è una cosa che piace a talmente tante persone che, cioè, chi sono io per dire che è una cazzata? A me tutta, vabbè, questa ritualità, ognuno c'ha i suoi gusti, tutta questa ritualità dell'abito bianco, del padre che ti porta all'altare, sono tutte cose che simboleggiano, per esempio, l'anello di fidanzamento. Lo sapete, allora, l'anello di fidanzamento deve costare, e questa è una regola, sì, tacita, due mensilità dello stipendio, sì, di lui. Non lo sapevo, ecco perché. Perché lui, mandandomi in giro con questa pietrona, deve dire che lui il grano lo tiene. Come dire, come quando compri una casa metti una caparra. Ecco, detto brutta, è un però po' così, esatto. Del resto, c'è, con la volubilità, sì, dei maschi, dice, va bene, metta la caparra. È sempre un contratto, esatto. Vedi che però il luogo comune è saltato fuori. No, la detto, volubilità l'ho dei detto maschi. Solo perché l'ho scritto nella quarta di copertina, ma in realtà anche noi siamo volubili. La donna è mobile. Quindi vince Tinder nella società di oggi. Ma allora, sta cosa di Tinder mi fa sorridere, perché ho fatto un sacco di interviste per questo libro e tutti mi chiedono è Tinder, però guardate che in ogni società c'è stato un equivalente di Tinder, tant'è che in questi libri qui ci sono, nei libri degli anni 40 ci sono proprio dei comportamenti da adottare quando tu esci con uno che hai reclutato con gli annunci. annunci. Ok, non era Tinder, erano gli annunci, era un po' più macchinosetto, però ecco, è sempre stato così. E quando loro raccontano di come si stava, cioè come stava la tipa che andava all'appuntamento con quello degli annunci, che diceva questo qua mi vorrà vedere soltanto per portarmi a letto, cioè è proprio la non stessa so, cosa. Sono le stesse cose che dicono le persone che stanno su Tinder. E così, però, cioè, la società ha sempre trovato dei modi. Corsi e ricorsi storici, sì, direi. Di forzare punto. La mano a Cupido, li ha sempre trovati i modi. Hey boy, what you say boy? You tryna play coy like a game boy? Hit my phone boy, is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish, I hit puppy. Allora ragazzi, io stasera pensavo di portare in questo bellissimo ristorante. Quale ristorante? Questo qua, quello dove siamo ora. Ha sentito il rumore di bicchieri? No, non ho sentito, scusa. No, vabbè. Com'è? Siamo in questo ristorante. Wow. Passo un bicchiere a Irene Soave. Ah. Tra l'altro è il nome di un vino delle mie terre, Soave. Ah, vedi, e mi siedo con lei a tavola. Anzi, scusami, prima di sedermi a tavola, datemi una mano in questa, in questa cosa. Sì. Allora io ti devo spostare la sedia quando entriamo al ristorante? Oppure direi no? Di sì. Ma no, ma cioè, secondo me non sono necessarie queste manfrine. Cioè basta che tu sia gentile. Perfetto, allora siamo avanti, seduti allora. Siamo seduti. Anche la portiera delle macchine, cioè, ho visto su un sito di incontri molti uomini. Una delle cose più scritte dagli uomini è: amo aprire la portiera della macchina alla mia donna. La mia donna! Mia, cioè, aggettivo possessivo. Questa bio fa venire voglia di fondare un collettivo, cioè, di... È un ossimoro questa frase, cioè, amo aprire la portiera della macchina. Ah, che bel gesto della mia donna. Quindi, ma no, ma positivo e il negativo nella stessa sentenza. No, sono tutte la stessa cosa. Cioè la cavalleria è un po' il rovescio della medaglia di un atteggiamento così. È ipocrita. La cavalleria potrebbe essere ipocrita. La cavalleria è maschilista. È maschilista. Bella questa. Va bene. Però intanto io mi siedo di qua. Guardo ovviamente è io ostica, mi siedo per guardare la porta dell'ingresso. Così che se qualcuno entra dovesse sparare, come dicevamo prima, ah, no, lo vedo e ti dico spostati amore, prendo io questi proiettili. Intanto ti do il menù di questa serata. Ah, ok. Bello. Ristorante La Meridiana. L'ho possiamo scaricato citarlo. Da internet. Quindi non è che ci denuncerà. Non lo so. Che prezzi ci sono, tra l'altro? Ma dei prezzi abbastanza morigerati. Sì. Chissà cosa. Vabbè, secondo me, uscita, ordina... ragazzi, non ho scelto un ristorante. Tardo 10 euro. Secondo bravo, me... stai dicendo una cosa geniale. È la prima uscita, quindi non hai scelto un ristorante carissimo. No, stavi dicendo questo. È ottimo, perché questo è un altro grande cliché. Che in una prima uscita si va in un posto carissimo. Così io, per esempio, sono intimidita da morire. E quasi tutte quelle cose. Però, scusa, è vero io che sono andato potrebbe ordinare. Ma no, che babbaro, no. Vabbè, sì, ovvio. Cioè, che cazzo me ne frega. No, ma secondo me, tendenzialmente, se. Sa già che sarà offerta questa cena lei. Non, è del non mi stai ascoltando tu Irene. Sta zitta. No. Maschilismo imperante. Cazzo, ma proprio, cioè mansplaining a bomba. Sa che non pagherà lei e quindi ordinerà la cosa più cara. Sì, vabbè, certo, okay. Perché sai nessuno, cioè, perché siamo fatte così, è no, certo, poverine. Certo. Senti, allora però Ricky, scusami, glielo dico o non glielo dico a Irene che in questo posto ci sono già stato? No, non dirglielo perché sembra che tu abbia già portato qualcuna che sia il tuo primo posto. Ma meno male, che ci sei già stato, almeno sai come si mangia. Cioè, ragazzi, vedi che c'è anche un lato positivo. No, tu invece dici scannatoio. Vabbè ragazzi, dipende, non dirlo con tono da scannatoio. Effettivamente, sì, è anche vero. Se dici che sei già stato, che ti piace, questo stato portato qua perché questo posto mi piace, se ci sta. Senti, okay. Ma queste cose sono irrilevanti. Comunque. Sono stato qua un paio di volte. Cioè, ma poi, soprattutto, cosa mangiate? cosa vuoi scegliere? Allora, io voglio mangiare. Vabbè, c'è il foie gras, che è il mio cibo preferito. Quello. Speriamo sia buono. Intanto quanto costa? 14 euro è l'antipasto più caro. Però vedi, vabbè, te l'avevo detto. Te l'avevo detto. Ok, è la cosa che preferisco. Pago io. Cioè, e comunque, poi... secondo me, tutto questo mostra che il primo appuntamento non dovrebbe venire a cena. Perché... Cioè, quando invece? Perché ci sono troppe strutture da sviscerare. Insomma, ma secondo me sì. Un vino post cena, pre cena, un aperitivo veloce. Così non so, cominci non so, un attimo. Non so capire. Dare un'idea. Però è una cosa che, appunto, il fatto che stiamo discutendo di questo. Allora, facciamo così. Voi due, Irene e Beppe, vi siete già incontrati e avete già fatto un paio di aperitivi e di birrette. Adesso è arrivata la prima cena fuori. Mettiamola così. Sì. E senti, ma che argomento posso aprire con te stasera? Primo Beppe, ma sei mai uscito con una donna? Credo di sì. Cioè, no, ho capito, ma abbiamo Irene. Sono a cena con Irene Soave, chiedo a lei che ti ha scritto un libro su che argomento dovrei aprire. Ma fai delle proposte, tipo... La situazione politica recente... No, non si può, la politica no. Ma cosa? cosa. Allora partirei con... Hai letto l'ultimo libro di Fabio Volo? Ma no, ma perché no, Fabio Volo? Ragazzi, sono passato dagli ma esteri. Scusa, ma se usciamo insieme sapremo cosa dirci, ma sì, no? Dai. Senti, allora, ma che lavoro fai? Ma no, ci me l'hai detto al primo appuntamento. Scusa, Irene, la domanda in realtà vera di tutto questo sketch è: quando un uomo ti invita fuori, che probabilità c'è che venga fuori con te soltanto perché vuole portarti a letto già dal primo appuntamento? Ma non lo so, dipende dall'uomo, dipende dall'appuntamento. No, scusa, ma poi non è una brutta probabilità. Cioè, non è una brutta cosa, no, sì, certo. Non saprei. Vedi? Quindi scusami, Irene, ti ho portato a cena. Ho offerto io. Va bene. No, apriamo questo luogo comune. Io, una volta che il maschio ha offerto, a volte si sente in diritto, no? Ma siamo nel 1706, ragazzi. Ma di cosa stiamo parlando? Ma c'è un capitolo del mio libro, se volete me lo leggo. Che è tutta la casistica. Vado? Poi mi fermate perché è molto lungo, invece ne leggo solo un pezzettino. È tutta la casistica di chi... Si ricorda a memoria la pagina dove l'ha scritto. Mi ricordo il capitolo, perché è una cosa che ho guardato... Non è detto, perché ci sono molti che non sanno quello che scrivono. Quello che la prima sera ti porta in un posto strabiliante per fare colpo. Ahia. Quello che ha gusti costosi e condivide volentieri. Quello che sceglie un ristorante orrendo e non si capisce perché. Se per mettere in chiaro che quello sarà lo standard, se vuole risparmiare o se pensa che davvero sia un bel posto. Secondo me è la prima. Taglio un po', poi c'è quello che invece mette in chiaro che farete alla romana. Ah. Quello che ti invita in un ristorante senza conoscerlo e quando vede i prezzi ti dice che è troppo caro e andate in un bar davanti. Un pidocchioso questo. È successo veramente. A te è successo? Mi è successo. Oddio, che tristezza. Quello che e poi c'è quello che fa pagare te ma poi gli spiace, si sente un pirla. Quello che faccio io, tanto partita IVA e fatturo e poi sparisce per mezz'ora a compilare carte alla cassa, in genere medici. Okay. E quello che paga sempre con grande clamore, però poi agli amici dice le donne vogliono solo, sono venali, le donne sono venali. E poi ci sono anche cose, le cose che facciamo noi donne, che, perché anche noi comunque abbiamo un atteggiamento contortissimo circa questo. No. C'è sempre quell'imbarazzo di... Vai. Quella che io ai primi appuntamenti vado senza portafoglio. Addirittura. Quella che invece vuole fare sempre la romana perché ci vede un tema di parità. Secondo me è quasi peggio. La femminista. Quasi peggio per te. Quella che paga e si becca anche i commenti del cameriere, che non ci sono più gli uomini di una volta. Anche questa è frequente. Poi quella che fa pagare lui e poi automaticamente paga il cinema dopo, l'amaro. Cioè, si sente in colpa e quindi deve... No, che fa così. Quella che dice che non importa, ma importa. E secondo me è tante. Sì, è terribile questo, perché è proprio il doppio giochismo. Non mi piace questa cosa. Quella che se paga lui mi sento comprata. Quella che se non paga lui si sente sminuita. Quella che si offre di pagare, ma poi quando lui accetta si offende. Quella che se la porti in un posto caro si intimidisce. Quella che se la porti in un posto informale si scoccia e poi si sente in colpa perché si sente venale. Quella che è davvero venale. Quella che il giorno dopo scrive alle amiche se ha pagato lui e quanto ha speso. Quella che non lo lascia pagare per non sentirsi obbligata ad andarci a letto e poi alla fine però non osa comunque dire di no e ci va a letto lo stesso e finge. Sono felice di essere single, perché secondo me dovremmo restare a casa da soli, tranquilli, senza nessun problema. Sì. Allora, cari ascoltatori, se voi siete in una di queste categorie, ci rivolgiamo soprattutto alle nostre ascoltatrici, potete farlo dirci quale categoria appartenete, mandandoci un WhatsApp al 340-8303-758. Irene, vuoi sfatare un ultimo luogo comune per oggi? Voglio sfatare un ultimo luogo comune. Sì, che ti amo, mamma mia, voglio sfatarlo. Ma ditelo, ma cos'è? Una frase mica vi stanno dalla lingua. È una frase facile. Va bene, grazie mille, Irene, per essere stata con noi. Vi consigliamo la lettura del suo libro. E noi, ragazzi, ci dobbiamo dire ti amo, penso a questo punto. A modo nostro. Sì, è vero. E ma quindi ci non ce lo diciamo. Con un bel sorriso. Un sorriso a tutti. Ci sentiamo settimana prossima? Sì, forse dipende, forse. Se non ci tagliano. Ciao, anch'io ciao. Vi amo, ciao. Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.